Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il duca Conte, come tutti posseduti dal demone del gioco, era preda di superstizioni e scaramantici rituali. Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui, qua, la fortuna viene qua. Ah, oui, oui, la fortuna non va lì. Fish! Oui, non ci giocavo. Ma insomma... Ecco, prego, duca, signor duca. Si segga. Scusi, signor duca Conte, ma veramente non ci sarebbe la sedia. Si segga lo stesso. Lo stesso. Ecco, fatto. E mi tocchi il sedere. Scusi, ma come... Ecco, come faccio, perché... Insinui una mano sotto, insomma, sarangi. Ah, ecco. Dove? Aia! Fa la bocca. Che le è successo? Levo il piede sotto il suo, signor. Rimetta subito il piede sotto il mio. Ci sono parti di quei film che solo ascoltarli non occorre nemmeno spiegarli. Certo. Giuseppe Sanzon. Sono subito esilaranti, no? Qui c'è la piena dialettica hegeliana del servo e del padrone, no? C'è il tonitruante Antonino Fa di Bruno, che è il mega direttore solito al casinò, che usa come amuleto umano Fantozzi, si fa insinuare la mano, le nocche sotto le larghe natiche padronali perché possa portare fortuna al gioco, invece perderà tutto e il padrone si accanisce sul servo che porta sfortuna. Ecco, questo è un film che è rimasto impresso nell'immaginario degli italiani. Fantozzi che viene trascinato al casinò davanti alla roulette, l'impiegato che è abituato a ben più mesti connubi quotidiani, con la moglie puzzolente, con la figlia mostruosa e via dicendo, però l'ambiscero che è il mondo attraversato dal demone del gioco. Perché oggi con Sansonna vi voglio parlare degli italiani al tavolo da gioco? Sì, perché sta prevalendo un'idea che secondo me è un po' sbagliata o perlomeno esagerata, del fatto che gli italiani improvvisamente siano stati colpiti dal demone, dalla furia del giocare dell'azzardo perché ci sono tante macchinette in giro. È senz'altro vero che ciò avrà stimolato le fantasie, i desideri, le lussure di cornucopia nascoste di tanti pensionati e di tanti ragazzini sprocedati, ma è pur vero che il fatto che noi siamo sempre stati un popolo di giocatori, di appassionati di gioco, di appassionati di azzardo, di chiedere al tavolo da gioco, alle carte, ai dadi, alle scommesse, a qualsiasi tipo di artificio, ciò che in realtà dovrebbe essere a noi procurato dalla nostra fatica. Sei d'accordo? Sono d'accordo, le sale bingo, le macchinette sono proprio la riproduzione della catena di montaggio della perdizione, non c'è più quell'ebbrezza del vizio, questo manca sicuramente. Però siamo sempre stati viziosi. Sì, sì, sì. La catena è quella. Tra un istante, con Sansonna, gli italiani schiavi del demone del gioco, attraverso la storia, attraverso la commedia. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Peppi, con sta carta te stai a giocare 800.000 lire. Beh. Antonio, non si danno suggerimenti al proprio padre. Anzi, però, come signore, io con sta carta non c'ho bisogno di suggerimenti. È la vecchia che manca strada. Ma se te lascia il 4 a tavola, tu cerca di ragionare, non mi buttare il 3, che così se becco il 7 è bello. Ma se io te lo facevo in mano a te il 7 è bello, come faccio a sapere che c'è la vecchia? Quando te guardo fisso e storco la bocca dalla parte, che vuol dire? Che vuol dire? Che c'è il ticchio nervoso, c'hai pure la ragazzina. È difficile orientarsi nei motti, così almeno li chiamo dalle mie parti, dello scopone scientifico. In questo caso fu funesto per Alberto Sordi non aver capito quello della moglie. Stiamo parlando degli italiani attraverso la storia della loro perdizione al tavolo da gioco. Lo facciamo con Giuseppe Sansonna, che è un regista, è un analista del cinema, ultimamente ha anche scritto un libro, Hollywood sul Tevere, storie scellerate per Minimum Fax. Ecco, in questo caso c'è una sorta di organizzazione familiare, ma non solo familiare, di clan, di borgata, di quartiere, per togliere i soldi alla vecchia ricca. Il gioco è spesso un'allegoria. Nello scopone scientifico del 72 di Comencini diventa una metafora pulsante calata sui corpi dello straccialoro Alberto Sordi, che sta con Silvana Mangano e vede piombare come un falco Bette Davis col suo servitore Joseph Cotten, arrivano in borgata e largiscono 1 milione, metafora del piano Marshall. ai borgatari sordi e mangano per poterli farli sedere al tavolo da gioco nella bellissima villa della Vecchiarda. Cioè, la perversione della Vecchiarda era questa: dare 4 soldi di beneficenza ai poveracci, proprio poveracci a livelli inimmaginabili di quello che potesse essere l'Italia negli anni dell'uscita del dopoguerra. Le baracche, baraccati sì. Pasoliniani. Però per riportargli lì via il gioco delle carte. Cioè, esatto. Gli dava un po' di soldi per il gusto di strappare il boccone di pane al morto di fame. Proprio. Per vendere un'illusione, per giocare come il gatto col topo, un po' una metafora, se vogliamo, anche liberistica, molto, molto esplicita. E loro ci cascano sempre, perché l'illusione li fa crogiolare nella possibilità di salire di un gradino nell'impossibile scala sociale. E lei si diverte, sta morendo, ma continua esangue a giocare e a vincere, perché poi vince sempre il ricco, vince chi ha, fondamentalmente lo dice anche la Bibbia, chi ha sarà dato, e quindi questo è un po' quello che comincia a esattamente questo il senso. Sì, certo, no, però se vogliamo traslare il senso. No, figo, io ridicolo se io a difendere la scrittura. No, certo, nelle varie interpretazioni, insomma, cioè, ecco appunto, questo risuona anche negli occhi di Bette Davis, nella sua perfidia di questa signora che, attaccata alle flebo, continua a estrarre denaro dalle tasche logore di sordi. Vabbè, è un vampiro, si pasce del sangue delle persone che già sono esangui in sé di natura, sennò che gusto ci sarebbe. Gli fornisce una finta chance di riscossa. Questo è interessante, la perversione è molto interessante di questo cinema che faceva emergere le perversioni. In pieni anni 70 si poteva analizzare in questo modo i rapporti fra USA e Italia. Ma certo, non c'erano sfumature, ovvio. La Vecchia era la rappresentante più cinica, diciamo, che portava attraverso quello che per lei era semplicemente una briciola dei suoi averi, la sua maniera per soddisfare con la sua bieca lussure, di vedere lo spasimo di disperazione quando portava via i 4 soldi alle persone. In questo caso Alberto Sordi è una sorta di campione, lui e la moglie di tutto, sì, il gruppo. Sono i campioni della borgata, infatti Mario Calotenuto è il professore di borgata che capeggia il tifo. E la cosa meravigliosa è che Comencini riesce sempre a cogliere nello sguardo bambino l'unica possibilità di riscatto. È la bambina che darà alla strega cattiva Bette Davis una torta avvelenata per far finire il gioco perverso in cui i suoi poveri genitori sono capitati e non usciranno mai più, perché se non con questa fine, appunto, è la bambina che uccide. Il famoso politicamente corretto termine straabusato qui viene rivoltato: una bambina killer chiude il film. Che i poveri sono anche cattivi in quelle letture lì, sono anche crudeli, sono spietati e non hanno assolutamente nessuna misericordia per il ricco affamatore. Crudelmente umani, fondamentalmente alla pari con la strega cattiva, con la Grimilde, Bette Davis. Ziolino, mi scappa la cacca. Vada qua dentro. Ziolino, di che sesso sono le tartarughe? Ma che ne so, io non c'hanno sesso, sono ricchioni, va bene. Ah. Ziolino, un'altra volta. Ho fame. Bello di Dio. Vieni con me, vieni, lascia questo. Vieni con me, bellissima. Quando manca la fine? Un minuto circa al termine dell'incontro. È terminata la partita anche all'Olimpico. Roma batte Sampdoria 2-1. A Firenze è finita 58, la partita. Fiorentina-Udinese 2-2. Rieleva più! Ho fatto 12! Non può essere, ho fatto 12. 12, non ci credo, 12. Non ci credo nessuno che ho fatto 12. Ho fatto 12, no? Sembrano tempi arcaici, quando ancora la gente giocava a totocalcio. Faceva 12 con la schedina, che era l'unica maniera, assieme all'otto e poche altre cose, di poter tentare un azzardo popolare. Esattamente. E consentito. Era legale. All'inizio, all'alba degli anni Ottanta, siamo nell'83, al Bar dello Sport, il titolo del film, Lino Banfi è l'Ur canosino, l'Ur meridionale, arrivato a Torino, mal integratosi in questo nord, vivacchia. Il nipotino già parla torinese. Perché è sposato con la sorella di Banfi si è sposata con un piemontese che tiranneggia il povero Banfi, che dorme su un divanoletto in questa casa, come tanti meridionali facevano appunto in questa Torino che mal accoglie Banfi. Lui anima dei crostacei al mercato di Porta Palazzo con delle prese da batteria, insomma. E dalla scossa fa sembrare che sono vivi. Per sembrare vive, insomma. Un bel mestiere. Una mesta attività, insomma, sta sotto banco. Dalla scossa alle aragoste, così la gente pensa che sono vive. Sì, così possono essere spacciate per fresche, in realtà sono stramorte da tempo. E questa è la palingenesi quotidiana, quella della schedina, rito condiviso nei bar, illusione di un altrove, no? Destinata poi a a incenerirsi a ogni fine di partita, perché all'epoca le partite iniziavano tutte nello stesso momento e finivano tutte ritualmente più o meno allo stesso momento, e quindi era possibile illudersi che ci si poteva arricchire con un 12, con un 13 addirittura. È questo che racconta Banfi, questa povertà che è destinata anche qui però qui ha una riscossa, perché è un caso unico, in realtà sta raccontando uno spaccato di vita, però che era possibile condividere. Questa è la differenza di oggi, cioè, oggi c'è la solitudine del gioco compulsivo, la dimensione tombale, claustrale. All'epoca invece si poteva giocare una schedina insieme, si poteva attendere le partite insieme, anche l'illusione in fondo costava poco e in fondo creava coesione sociale, affettività, socialità, insomma c'era una dimensione bella anche in questo. Dai, vieni via Franco, vieni via, ti vuoi fare giocare 250 milioni, tutto quello che hai, capisci, tutto il cinema, Franco. Lasciala in pace. Ma come lasciala in pace, non vedi che ci sta pensando? Lasciala in pace mentre ti serve. Ci sta pensando, vuole rovinarsi definitivamente, voi sarete i suoi amici, belli amici. Senta, la prego di uscire immediatamente. Va bene, io me ne vado. Franco, Franco, vieni via. Allora cosa ha deciso di fare? Una decisione molto difficile. Le possibilità sono due. Tre. Non fa parte delle regole del gioco, ma essendo io vincente, glielo offro. Lei non sa quanto bene mi abbia fatto vederla battuta. Non può capirlo. È per questo che mi sento di poterle offrire una terza strada senza che nessuno abbia qualcosa da obiettare. Può alzarsi e infilarsi il cappotto, risalire sulla sua auto e andarsene senza aver perduto nulla. Cioè lei mi abbonerebbe tutto? Non è regolare forse, ma a Natale voglio farle questo bellissimo regalo. Ricordo benissimo questo film, che se non sbaglio è Natale 86. Per me fu un lutto, perché Abbatantuono per la prima volta apparve nel film di Pupi Avati come attore serio, attore tragico. Io ero ancora abituato a vederlo eccezionale veramente, il Terroncello e via dicendo, che fa una parte tragica, anche terribile una parte, che è tutto giocato sul filo dell'ambiguità. Carlo Delle Piane, che è un infame terribile, trova anche, è un gioco sadico simile a quello della vecchia americana, lo illude quasi che lo grazia, tanto da indurlo ad andare a vedere le carte, quindi gli porta via tutto. Esattamente, il gioco diventa anche qui messa in scena di rapporti crudeli, laceranti, diventa metafora di rapporti che intercorrono fra persone. Qui a Abbatantuono, tra l'altro, Avati è molto cannibale nella vita degli attori, era veramente in quella condizione, perché mi veniva, come dicevi tu, dal ruolo del Terruncello, aveva un po' perso tutti i soldi, come racconta nella sua autobiografia, non aveva molti soldi in quel periodo. Sì, perché diciamo i film non erano niente di che. Però avevano fatto molti incassi, ma avevano esaurito il filone. Lui, beh, quindi, come tutti voi meridionali, quando venite, certo. Dilapidate tutto, certo. Parenti, amici, donne di malaffare, è finito. Rimane solo la valigia di cartone. È successo comunque anche a te, infatti. Certo, è successo tuttora. Con il tuo libro hai già sperperato tutto. Certo. Come un nababbo, jacuzzi e cose, e poi finisce. E adesso come farai? Ho estinto l'auto anticipo dalla casa editrice. No, invece Abbatantuono era più o meno alle stesse condizioni mie, però ravviò i capelli, la folta criniera all'indietro, si scorciò la barba, aveva questi baffoni, ed era di fatto più o meno nelle condizioni del suo personaggio nel film, cioè un uomo in una fase di transizione che viene chiamato da vecchi amici a Bologna perché c'è un pollo da spennare. Il finto pollo è Carlo Delle Piane, che in realtà... Ma il pollo è proprio Abbatantuono. Esatto, quindi. Esatto, perché e quindi c'è un vecchio amico, lui è adescato da vecchi amici, quindi anche qui il gioco come metafora di rapporti di amicizia falsi o laceranti, rotti in passato, rimessi sul tavolo, è un mettersi in gioco della vita. È l'orgoglio su cui punta Carlo Delle Piane quando lo porta, come dicevi tu, con un trucco a venire a vedere la posta, perché potrebbe andarsene e non perderebbe nulla, ma sa, tutti sanno benissimo che Abbatantuono è un personaggio orgoglioso e quindi non accetterà l'umiltà. E scoprirà quanto è amaro il morso del tradimento degli amici che hanno portato lì proprio lui per spennarlo. Ci fermiamo un istante, tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ci spieghi come e dove sono cominciati i fatti? Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Matti, un mondo di matti, roba da manicomio, signor Presidente. Prenda il principe Raniero Sforza de Dumine. È principe, Ma alle corse perde conoscenza e gioca in società con Augustarello, che fa il monnezzare. Quello che vincerà questa corsa è Serafino. Ma quale Serafino? È un sole mio, principe, ma che te sei rincoglionito? Perché ognuno c'ha un cavallo sicuro che non può perdere, come Brondolo, un nanetto che vive dando agli scommettitori informazioni di scuderia. È possibile che ogni volta che mi dai un cavallo, quella arriva ultimo. Allora, Sansone, ma questo è lo stranoto Febbre da cavallo, film del 76. Prima che tu spieghi bene esattamente il contesto a chi non lo conosca, ma mi sembra difficile, vorrei farti riflettere su un fatto. Questo film ancora è in epoca in cui non esisteva internet, non esisteva l'idea dei social, dei fenomeni virali, era già un fenomeno virale e un fenomeno social. La gente se lo condivideva come se fosse oggi un video su YouTube di quelli che fanno tonnellate di condivisioni, guardandosi la casa con i vecchi VHS, invitandosi nei pomeriggi neghittosi romani. La gente l'aveva visto 70 volte, 80 volte. Per anni sono fatte riunioni nelle case per guardarsi Febbre da cavallo. Ecco, ti spieghi il perché di questo filmetto, che in fondo non era niente di che, questo fenomeno che precorsa addirittura il meccanismo di viralità proprio della rete. La viralità rimbalzava anche sulle TV locali nascenti in quel periodo. Ah, ecco, sì, le TV locali, per quello. Che dal 76 in poi appunto trovarono la loro massima diffusione capillare in Italia. Di certo coglieva degli archetipi, era fatto da un solido vecchio leone della commedia italiana, regista geniale del cinema popolare, che era Steno. Sì, perché ho detto una cazzata, nel 76 non esisteva il VHS. Il VHS è arrivato dopo i primi anni 80. No, ma non è inesatto quello che hai detto, perché dopo comunque con i VHS, con le registrazioni, ha avuto un'ulteriore rivitalizzazione, però... Quella delle TV locali fu la prima ondata, non tanto quella cinematografica, dovrebbe buon successo, però prima le TV private e poi VHS si creavano... dava l'appuntamento quando andava in una TV privata, locale, T9, a Roma, rionale, queste cose qua, tutti a casa a vedere Febbre da cavallo, sì. Ma gli archetipi forti di questo film erano Mandrake, cioè Gigi Proietti, Erpo Mata, Montesano, quindi due figure che incarnavano insieme un affresco corale strepitoso tutti quelli che erano i giocatori di Tor di Valle, di Capannelle, degli ippodromi reali, un'umanità variegata, pulsante, interclassista, che oggi si è un po' persa, perché appunto oggi il giocatore vive nella sua solitudine delle sale bingo e delle sale scommesse, in cui tutto sommato c'è una dimensione privata, non condivisa, non di scambio di informazioni, di lettura di informazioni. Qui si parla appunto, sentiamo Proietti che evoca le voci di scuderia millantate, fantasmagoriche, oppure le dritte reali, oppure i discorsi con i Fantini. C'era un mondo colorato, vitalissimo, viscerale, che questo film riesce a restituire molto bene. Che te sei giocato, Manzotin? O sole mio, ma che te frega te? Te voglio bene, te voglio aiutare, te voglio dare un cavallo buono. Gioca dei Paganini, quello che c'ha qua la macchia bianca sulla fronte. Guarda che Paganini, non c'ha nessuna macchia bianca sulla fronte. Non vedi questo, ma si vede che non c'hai spirito di osservanza. Scommetti 20.000 che manco ti ricordi di che colore ti sei messa la cravatta stamattina. Au, mi tocca a fare sto furto. E dai, scommetti, da che colore ce l'hai? Io porto una cravatta sola, gialla russa, come a Roma. Hai perso, Manzatini, non te la sei messa la cravatta stamattina. Sgaccia. Ora deve sapere, vostro onore, che tutto il fattaccio è nato da un fatto, quello di avere fatto società con Felice e con Pomata. L'altra occasione di fascino di questo film è la trasversalità del vizio, tutti ne sono contaminati. Addirittura vedi il magistrato, quando vanno in processo, Adolfo Celi, tira fuori anche lui il giornale, anche lui era contaminato. Che anche lievemente surreale, non è che la passione dei cavalli attraversasse tutto il paese in maniera così massiccia, eppure se ne fece una ragione di narrazione. Erano tutti in Italia vicini e pronti a ripetere i nomi dei personaggi, dei cavalli, delle vicende, le cose assurde. Sì, c'era anche la smania tutta romana, ossessiva, del rinominare con soprannomi qualsiasi cosa e qualsiasi personaggio. Manzotin, per l'appunto, è la faccia da truce, macellaio, pugile di Ennio Antonelli, storico caratterista romano, meraviglioso. Era anche questa la ricchezza di quel cinema, di quella tavolozza umana antropologica che solo questo cinema riusciva a fornire. Visi che oggi non ci sono più nell'anemico cinema attuale. Se io mi gioco tutto e vinco, quanto fa? 3 milioni e 200.000, madame. Oui, c'est de l'échevaux. 3 milioni. 8 chevaux. Faites vos jeux, messieurs dames. In quel momento, signor commissario, non pensavo che al negozio, al sogno di tutta la mia vita. Un negozio bello, elegante, tutto nostro. Pensavo alla felicità di Remo, che sotto un padrone non ci può stare. Buonasera, signora. Oh, contessa, buonasera. Buonasera, Marina. Senta, Marina, io vorrei fare una merce sul nero. Nera? Sì. Ma no, facciamola sul rosso. Ma me l'ha consigliato anche mio marito. No, contessa, rosso, rosso. Meglio rosso. Noir en verre passe. Perduto. Il film non lo abbiamo visto, lo stiamo ascoltando per radio. Penso si giochi sul doppio senso del rosso e nero, i colori della roulette di Stendhal. In realtà si gioca su altri doppi sensi, ovvero il film Crimen del 1960 di Camerini, film in punta di penna, meraviglioso, sottile, quasi alla Lubitsch, con una strepitosa Mangano che è moglie di Gassman. Sono tutti coinvolti i personaggi, tutti i protagonisti in un delitto che non hanno commesso, finiscono dal commissario e sono costretti a raccontare la loro vita. La Mangano vorrebbe aprire un ulteriore negozio, un negozio più bello nella Trastevere ancora popolare di quegli anni, non il quartiere fighetto di oggi, e col suo marito un negozio migliore, quindi punta al Monte Carlo, in realtà perderà tutto. A fianco a lei c'è Sordi, in piena fregola da gioco, coi baffetti sudaticcio, febbrilissimo, che come un folletto va da un tavolo all'altro con i numeri, con le fiche incandescenti tra le mani. Anche qui c'è l'affresco umano di un'Italia che era presa dal demone del gioco e dal demone della risalita sociale nel caso dei due parrucchieri, e che comunque si ritrovava contigua a questi tavoli da gioco, in questa Monte Carlo esotica, questa Mecca dell'altrove, della possibilità di riscatto sociale, economico ed esistenziale. C'è da ridere, Don Coso, credete d'aver fatto? Fatta, cinque prima no, mi scappa. Egregio amico, la prima partita è dei fessi. Del resto giocavamo piccolezze, ecco. Il gioco l'intero palazzo, dalle cantine al tetto. Avanti, scopassetto. Siete pronto? Ecco, quando viene allucinato il ludopate, la ludopatia, se ne parla, sono congressi della ludopatia. Ecco, qui Vittorio De Sica è veramente un affetto della ludopatia, a tutti gli effetti. Sì, sì, era un amante frenetico del gioco, ossessivo, un po' come il grande... Erano questi grandi italiani dall'aria nobile, come il grande scrittore Tommaso Landolfi, che scrisse capolavori anche sul rapporto col gioco, come il suo diario intimo, Rien va, si chiamava per l'appunto. Cioè questa ossessione della roulette, del giocarsi la vita, giocare con tutto, ma con una eleganza da esteti decadenti, da principi decaduti, da aristocratici sempre. Qui in questo caso è il Conte Prospero, dell'oro di Napoli, che gioca con questo ragazzino, che è il figlio del portiere, cioè che gli viene è l'unico con cui può giocare, è stato interdetto, gli hanno tolto i soldi, l'impossibilitato a entrare in ogni casino, si sfoga con sto bambinello, figlio del portiere, che anche lì è una sorta di obbligo di casta, deve andare, lui non c'ha voglia, vuole giocare, dice no, vai su, lo manda a giocare con il conte interdetto, ludopate, deve farlo vincere anche, mi sembra. Sì, sì, il bambino vince purtroppo, perché poi il bambino torna bambino e vuole vincere, appunto, come tutti i bambini. Però dovrebbe far vincere l'altro. Dovrebbe far vincere il Conte Prospero, che infatti per raccontare a se stesso che sta giocando ad alti livelli gli dà del lei, lo tratta come un adulto, quindi il grottesco, il surreale, il delicato emerge proprio da questo quadretto. Si gioca tutto il palazzo. Sì, col bambino, poi in realtà poi il gioco è fasullo. Non... E poi gli porta via le figurine, i suoi giochini, le cose che aveva in tasca, adesso non ricordo bene, ma... Certo. Il bambino aveva una posta miserrima, capito? E De Sica comunque nulla, come la nobiltà nella sua accezione più romanzesca, grandi fasti, ma poi in tasca niente, assolutamente nulla. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog, Cronache Meridiane. Saprete quindi dunque qual è il biglietto abbinato a questo film, avrete già potuto capire dove sono andati questi miliardi, ma siccome immagino che in alcune case ci sarà molta confusione in questo momento, vi ripeto la serie ed il numero. Attenzione, vince i 5 miliardi della lotteria di Capodanno il biglietto serie Z numero 01717. Lo ripeto, biglietto serie Z numero 01717. Quale casa starà festeggiando il mio padre? Ovi! Io! Ovi! 103. Ci stiamo avvicinando alla festività, alla ricorrenza di Capodanno. La lotteria di Capodanno ormai non emoziona più nessuno, ma per anni è stata la ricorrenza più da ricordare. Nonni, zii, davanti al televisore, nella festa televisiva di Capodanno, con la schedina in mano a vedere se era vinto qualcosa. In questo film Paolo Villaggio, che il film si chiama Ho vinto la lotteria di Capodanno, un villaggio simil Fantozzi attende messianicamente anche lui questo biglietto a cui ha appeso la vita, perché attaccato a un nodo scorsoio sta per porre fine a una mestissima esistenza, ma il biglietto proverà a proiettarlo in un altrove, in realtà gli farà vivere le solite avventure da vircoiote fra esplosioni, lavande gastriche e disastri vari, incontri con la mafia, fino al solito finale tragico, comunque con connotazione fortemente grottesca. Però quello che interessava è che, quello che dicevi tu, quell'attesa ancora messianica, collettiva di un paese, attaccato a questo biglietto, alla lotteria di Capodanno, come svolta liturgica quasi. Poi il bello di queste, diciamo, speranze collettive è che ce la faceva uno o poche persone, quindi alla fine tanti sapevano che sarebbe stato uno, due o tre o quattro i privilegiati. Quindi tanti che aspettano e pochi soltanto avranno la vera felicità. Quindi è maggiore il numero della disillusione, dell'angoscia, della tristezza, anche dell'invidia degli altri, che la felicità di uno non è paragonabile in un'ipotetica bilancia fra felicità e mestizia per tutto il dolore della delusione degli altri. Hai centrato un punto cruciale, perché poi infatti in queste dinamiche di sceneggiatura il biglietto veniva sempre nascosto, tenuto nascosto, la vincita non doveva mai essere esplicitata. Per questo. Perché l'invidia, i parenti che ti chiedono i soldi, i parenti da ogni luogo del mondo, le tasse, c'era sempre questa paura. Sì. Le minacce erano quelle, quindi non c'è neanche la possibilità di godere pienamente di una gioia. La gioia è comunque minacciata da una tristezza, da una mannaia che si abbatte sul vincitore. Come i falsari, ti ricordi i falsari? Totò fanno i soldi finti. Sì. Poi dovrebbero andarli a spendere, però in realtà nessuno ha il coraggio di spendere, fanno tutte le vite miserevoli. Quello che si compra Peppino si compra le scarpe, ma a debito. Nessuno ha il coraggio di spendere i soldi falsi. È come se la povertà fosse una tara endemica insuperabile anche col denaro, no? Cioè il denaro bisogna sapere essere ricchi, ecco, bisogna averlo quasi di censo da generazioni. Questa è un po' una sorta di... Era una generazione di poveri, non so se nella realtà o nella rappresentazione soltanto, che avevano una sorta di complesso di colpa a uscire dalla loro condizione. Come se avesse una rassegnazione data: se siamo poveri ci sarà una ragione, avremmo fatto qualcosa, se non noi avranno fatto qualcosa chi è venuto prima di noi. Allora con le 100 che mi hai fatto giocare mi devi dare un e uno. Vogliamo andare in sala così mi dai i soldi? È 1.100.000, per Dio! Non scherzo, posso rovinarti, lo sai? Allora? Stasera non è il caso, ne riparleremo. Lasciami stare. Ho degli impegni. Li voglio adesso. Non ti penso. Te l'ho già detto, ne riparleremo. L'hai fatta apposta non firmarmi la carta. Perché volevi fregarmi in partenza. Ti sistemo io. È vero quel che diceva Daniele. È tutto vero. Ora ne sono sicura. Ma non importa niente. Io ti amo, Massimo. Cos'è questa vicenda fra minacce e storie d'amore? Questo è uno splendido film del 53 di Claudio Gora, che era un splendido attore in realtà, però ha fatto anche delle prove notevoli da regista, e racconta la vita di Massimo Serato, che era quell'attore con quello sguardo languido, l'aria torbida da villain, da cattivo di tanti film e di tanti melodrammi. Qui è il protagonista assoluto ed è interessante lo spaccato d'ambiente che regala. Lui gestisce una sala corse ippica, e per mantenersi in un contesto di ricchi veri, sfaccendati e snob, è costretto a ricorrere agli usurai per mantenere un apparente tenore di vita che in realtà non ha, perché ormai è ridotto sul lastrico e con il fucile degli usurai puntato alla testa, e quindi sta sulla corda. È un po' una situazione italiana molto tipica anche di anni successivi, quello di fingersi ricchi, di fingere uno status che non si ha, ma per mantenere un'apparenza dolorosissima e costosa in termini proprio di esistenza. Ma di vita. In questi film e in queste epoche c'era il senso di dare un monito, di ammaestrare, di spiegare una sorta di come con le edicole, con le fiamme dell'inferno, come si va a finire se ci si incammina in questa china del vizio? Beh sì, c'era nel dopoguerra c'era comunque un intento morale di fondo molto forte, c'era un'etica. Infatti c'è anche Mastroianni in questo film, che rappresenta un archetipo totalmente opposto, con la sua voce di panna, la sua faccia da bravo ragazzo del Frusinate, è il contrapposto a Massimo Serato, è l'esatto opposto, appunto. Chissà perché oggi invece su la, diciamo, il timore collettivo rispetto al demone del gioco si fanno tanti talk televisivi, pagine di giornale, salotti, ma nessuno riesce a fare un film che abbia lo stesso scopo: far capire, spiegare, impaurire, togliere la voglia di rovinarsi e mettersi in mano agli strozzini. Perché i film si immergevano profondamente in una realtà annusata, vissuta dagli sceneggiatori, toccata con mano, e la restituivano attraverso la forma cinema con un'intensità maggiore della banalità, se vogliamo mi sia concesso, dei talk show. È la forza del cinema, la forza emotiva della costruzione filmica, crea gli archetipi che rimangono impressi poi nell'immaginario collettivo. Ma Marisha, che ve volete fare una giocatina? Giocatevi Pasquale, piazzata alla quinta. Poi c'è Checca, piazzato alla sesta. Poi c'è Ciulo, qui a Roma. Così se vince Pasquale, più alla percentuale. Se vince Checca, più alla stecca. E si perde Ciulo. Ma vi onda il culo. Fa il tifo per lui. Me l'aspettavo questa assonanza proprio dall'inizio dello sketch. Un po' telefonata, sì. Qui è Thomas Milian, l'amico Thomas, che appunto adesso sta a Miami, che è tornato a Cuba dopo 60 anni per un periodo. No, appunto qui era costretto a essere l'archetipo della brutalità invece romanesca, e raccontare anche lui, se vogliamo, ancora una volta uno spaccato vicino a Febbre da cavallo, quello dell'ossessione delle corse romana, quello della rinominare attraverso soprannomi tutto il mondo. Questo era il mondo di Dermonnezza, del commissario Giraldi in questo caso. Beh, c'è qualcosa di nostalgico, di arcaico in questo mondo delle corse, per quanto può essere intriso comunque di disperazione, di infamità e via dicendo, rispetto alle forme attuali di gioco. L'anziano che entra nel bar con la slot machine si mangia tutta la pensione, sì, sotto gli occhi indifferenti degli altri, monetina dopo monetina, tutto quello che aveva preso alle poste mezz'ora prima se ne va chissà dove. Mentre il barista perfido ripoggia il banchetto sulla slot per continuare a giocare, lui non lo beve, trangugia, non lo guarda, qualche nocciolina per continuare a giocare, continuare a perdere tutto, a estinguersi, la sua pensione minima, se ne va. Mantenerlo in vita, come i poveri baraccati della vecchia americana. Però almeno quelli si guardavano negli occhi con i loro persecutori, qui non c'è neanche un guardarsi negli occhi, solo la slot che continua imperterrita a girare i suoi simboli. Però le lucine sono molto carine e abituano a quelle che saranno le luci dell'aldilà. O quelle natalizie. Ci vediamo alla prossima, anzi ci sentiamo.